Domenico Sciaino l'abbiamo mixato o perlomeno selezionato in successione con Amp 2 e Tim Hockinson. Amp 2 lo dico all'italiana perché è progetto italiano legato a Sciaino per quanto riguarda l'editing e poi anche alla città, appunto, che prima abbiamo trattato, appunto, con Dove Day in Palermo, un disco splendido di Domenico Sciaino. Amp 2 è lo studio di registrazione palermitano dove hanno collaborato Dario Sanfilippo e Marco Pianges al computer, e Sciaino, appunto, come editore del suono, l'editing, insomma, che nelle musiche elettroniche non è cosa da poco, anzi nella sperimentazione sonora direi che è assolutamente principale, e alla chitarra Gandolfo Pagano e alle percussioni Antonio Secchi. Poi c'è anche, appunto, un lavoro fotografico interessante di Erika Di Gangi, e insieme a loro, appunto, Amp 2, sia in termini di studio studio musicale e sia in termini di progetto, c'era il grande Tim Hockinson, grande per tanti aspetti, lo conosciamo e l'abbiamo anche trattato pochi giorni fa con puntata zero di 451 intersezioni, visto che è stato anch'egli un Enrico, uno dei vari passati, appunto, da questo collettivo incredibile degli anni 70. Tim Hockinson, personaggio come d'altronde tutti gli Enrico, perlomeno per quanto riguarda quelli che sono rimasti in vita, insomma, e sono sempre stati attivi e anche con quella voglia, insomma, ancora di sperimentare, in questo caso Tim Hockinson con il suo clarinetto, appunto, insieme agli italiani dell'Amp 2, e tra l'altro edito dalla Window, quindi ancora un discorso aperto rispetto agli Elasi e allo stesso Sciaino, appunto, etichetta che hanno gestito insieme. E Hockinson riesce come non mai, insomma, a veramente intersecarsi in una maniera piuttosto così sonora, nel senso di sperimentazione su quello che è un suono chiaramente clarinettistico, sì, ma deformato, portato più sul fiato, su quello che è appunto il movimento di fatto che si crea attraverso il soffiare dentro, appunto, il clarinetto, quasi dei soffi, degli sbuffi anche a volte di Tim Hockinson dentro questo AMS, lavoro, appunto, trattato a Palermo e uscito, come dicevamo, dalla Bowindo. Discorso invece che collega ancora sia Sciaino che Elasi è legato alla Fringe Record, che non esiste più, e in questo caso andiamo a prendere Michel Chion, Lion Marchetti e Jérôme Notinger per Saint Vin Jour, disco che anch'esso cattura i suoni in movimento che vengono catturati, ma vengono anche poi liberati in una sorta di misura, nel senso che è proprio come avviene, ad esempio, per, insomma, volatili come quelli di Sciaino in Dove's Day in Palermo, e qua non si tratta di volatili nel senso di pennuti, ma di suoni volatili, quelli, ad esempio, radiofonici o trattati in quasi in maniera playback e riproduttiva, appunto, da Sean Marchetti e Notinger, che vengono catturati per poi essere liberati in una forma anche piuttosto ironica, giocosa, con questa radio che si trasforma da creatrice sonora a poi quella che è sempre stata uno strumento di emissione anche di grande potenza, che può diventare ironico, può diventare serio, può diventare drammatico. Ci sono vari momenti dentro questo Le Saint Van Jour che vanno appunto da feroce, musicali, e a momenti anche molto delicati, a momenti anche di grande giocosità, come appunto adesso andiamo a trattare, quando appunto si divertono i tre sperimentatori sonori con questo suono che movimentano in maniera decisamente magistrale, se non che non è cosa da poco, anzi cosa piuttosto importante, piuttosto anche divertente, perché no, lo dobbiamo anche dire, divertita, perché si divertono, e come si sente anche. Les 120 jours, études de musique concrète. Mais il y avait une boîte juste à côté. C'est dans une apparente surliaison qu'apparaissent les ressources analytiques de la pensée-image par déformation figurale du corps, de la synthèse substrat-point-relation. Mais le creux ou le pli de l'image suscité par un seul de ces points équivaut à une ouverture. Quand un point devient visage, voix, sens, l'analyse en ce cas fait apparaître par ces points un nouveau sens de la relation globale. Comment entrer dans un paysage? Ah, par une coupe longitudinale, et c'est là l'art combinatoire lui-même, ou l'art de piéger. Comment entrer dans un paysage? Et le possible d'un son est toujours extrêmement inquiétant. Like a knock to achieve with the flavor. Criminal behavior on the mind when I got your back, you know I E finisce con questo gioco di fatto, insomma, infantile, questo gioco che per tanti aspetti è proprio legato a tutta la costruzione del pezzo, seppur avete sentito anche momenti così molto sottili, con queste invocazioni anche di una certa oscurità, se poi non uscisse questo appunto divertimento nel manipolare anche pezzi piuttosto famosi. Avete sicuramente riconosciuto alcuni dei passaggi pop anche importanti, e poi appunto questo suono che sopraffare quello che è il sottofondo radiofonico e invece farsi appunto sottile e quasi da accompagnatore di questo, la dice insomma lunga sul fatto di come possa essere utilizzato e anche il suono riprodotto in questo caso, e quindi anche creare una movimentazione che sembrerebbe impossibile da forme statiche come appunto la semplice registrazione radiofonica. Di fatto poi le radio hanno anche sperimentato con le avanguardie, pensiamo ai collage d'Ada, ma anche a momenti come la chiamavano loro la radio futurista, dove appunto c'erano una sorta di teatralizzazione sonora della radio. Potete sentire insomma vari esperimenti fatti, magari qualcosa l'abbiamo anche passato noi e la riprenderemo, perché no, e quindi c'è questo insomma riuscire a modulare in maniera fantastica anche insomma uno strumento che sembrerebbe statico, in realtà è decisamente legato al movimento, se pensiamo anche a come tante volte si ascolta la radio appunto, e non fermi, quindi di fatto si crea anche magari non in maniera pienamente cosciente questo movimento. In questo caso invece Sean Marchetti, o Marchetti per meglio dire, Nottinger, giocavano in maniera cosciente chiaramente su questa modulazione, su questo movimento che appunto può dare il suono radiofonico, il suono riprodotto dentro e fuori a un canovaccio o a qualcosa di più strutturato a livello sonoro, dato appunto dalle strumentazioni che vengono utilizzate chiaramente in senso concretista, e come anche molto anche palese, lo dicono proprio all'inizio. E d'altronde nel libretto della Frange troverete appunto, se appunto trovate un disco che purtroppo già è decisamente fuori catalogo, è proprio un riferimento chiaro alla musica concreta francese, terra appunto da dove vengono tra l'altro i tre che abbiamo ascoltato e dal loro Saint Van Jour. E se dobbiamo, insomma, questa sera lo stiamo facendo, trattare i suoni in movimento, le sculture sonore e l'installazione che insomma sonorizzano e a loro modo si fanno strumenti per composizioni più larghe, sicuramente uno dei progetti più interessanti e anche più mastodontici per molti versi, sia per durata che per sculture sonore create, quello di Paul Panuysen e Johann Godart, non confondiamo con qualche un altro, quello francese, e tra l'altro Jean-Paul, ma si occupa di tutt'altra faccenda, anche se forse per tanti versi potremmo definire uno scultore evusivo quello di cinema di Godard. Comunque stiamo parlando di Johann Godart insieme a Paul Panuysen, che se ne uscivano con un lavoro tra l'altro durato anche 3 anni, dall'82 all'85, con questo Long String Installation, dove appunto lavorano su quello che è l'effetto sonoro delle corde, creano delle installazioni metalliche anche di un certo impatto visivo. Andatevi magari a cercare le immagini su internet troverete faccende piuttosto insomma ingombranti anche a livello visivo, nel senso insomma che coprono l'occhio e lo stravolgo anche per tanti aspetti e con contrasti tra la buio e luce e anche a livello sonoro e soprattutto forse perché qua stiamo trattando i suoni in movimento, qua 451 frammenti sonori e vanno a trattare quello che è la musicalità che può essere data appunto dal trattamento, come già insegnò qualche minimalista anni prima, delle corde, dei fili metallici, chiaramente il riferimento è al grande lavoro di Avi Lussier, che viene portato avanti per molti aspetti, forse con una propensione più visiva da appunto Panuisen e Goddard con il loro Long String Installation. Paul Panuysen e Johann Godhardt per questo lavoro decisamente importante, forse più da seguire per quanto riguarda proprio l'ambito visivo, se non addirittura performativo. Sono opere anche che si muovono appunto sul momento, su proprio quello che è lo sviluppo. In questo senso si rifanno sicuramente ai momenti dell'avanguardia storica e proprio a vivere lì durante la performance, quindi durante la creazione stessa dell'opera, viverla in maniera totale e viverla anche proprio in quel momento, nel suo divenire. In questo senso il suono in movimento si fa sì utopico, ma si fa anche concreto nel farsi proprio lì sul momento. Magari l'utopia sta più nel concetto, ma poi di fatto partecipando concretamente, come tra l'altro potrete fare per quanto riguarda Gordon Monan, appunto andando a spazio aereo dal 24 al 26, potete poi vivere e anche interagire, perché comunque come dire, il momento installativo sonoro è un momento che va a essere generato anche attraverso quello che è la reazione del pubblico. Tante volte appunto si ha questa anche creazione appunto aperta, data da quello che non è più pubblico, ma diventa parte stessa della realizzazione, della composizione sonora, della reazione, quindi che viene manipolata. In questo caso il suono d'ambiente si fa un tutt'uno, Panuysen e Godhardt lavorano proprio su quelle che sono sia le frequenze e sia le oscillazioni nello spazio di queste grandi corde metalliche, dando tanto quel senso metallurgico, forse appunto ascoltandolo semplicemente appunto in questa maniera qua, 451 frammenti sonori. Ma lavorando anche su quel spazio immaginativo che magari ci può essere appunto ascoltando solo queste musiche, e poi appunto questo momento che viene sì registrato, ma che chiaro è soltanto vissuto parzialmente, così la totalità non può che essere appunto data dall'opera stessa lì vissuta nella sua creazione, nel suo farsi, nel suo divenire, nel suo movimento. Quindi e da Panuysen e Godhardt, con il loro lavoro seminale e Long String Installation, prima dicevo si rifaceva una grande minimalista, però forse anche per molti aspetti riduttivo definire Alvin Lucier minimalista, probabilmente uno dei più grandi sound artist viventi, che ha lavorato proprio viventi nel senso anche proprio di opera musicale, che ancora semina in questo senso appunto seminale. Che lavorando appunto su già il suo splendido lavoro sul filo metallico, che appunto attraverso le oscillazioni dava dei caratteri sonori veramente inascoltati fino all'epoca, stiamo parlando insomma dei primi esperimenti degli anni 70 di Lucier, poi appunto presi da Panuysen e Godhardt e portati forse anche con una dialettica, con quello che stava succedendo anche dai primi momenti installativi di certe musiche concretiste e rumoriste che andavano anche a toccare appunto lì di vicino alle neo-avanguardie e a quei momenti di così di rimodulazione, potremmo dire, del suono in movimento, inteso sia come i grandi francesi, Schaeffer in primis, è appunto il padre delle musiche concrete, ma anche appunto certe spazializzazioni, volute dalla, da Stockhausen, quindi la spazialità, ma abbiamo citato Cage, potremmo citare anche i nostri italiani, Berio in primis, insomma via dicendo, insomma, via trattando faccende che ci portano evidentemente lontano, ma vogliamo portarvi lontano soprattutto con un orecchio che va anche a farsi altro, appunto, occhio magari o corpo, perché no, perché insomma tante volte si utilizza anche proprio nella performance, appunto, l'aspetto corporeo, anzi è fondamentale in questo senso, quindi il gestualismo e della performance. E chiudiamo con Terry Fox, anche lì grande personaggio, grande scultore musicale, sonoro, artista visuale, performance, appunto, e video installatore, che questo lavoro addirittura è curato dall'Apollo, quindi Ino in questo caso, non c'è più il creare l'ambiente come fece Ino ad esempio per la musica per gli aeroporti, ma sfruttare lo stesso ambiente, quindi in questo senso si fa un altro tipo di discorso sullo spazio. E Terry Fox con questo Berlino rallentando va proprio a elaborare questo discorso sia sul suono della città, appunto Berlino, e sia sul rallentamento, quindi sulla una metodologia sonora che porta l'installazione anche a una sorta di rimando di memoria di suoni che appunto vengono riflettuti attraverso il rallentamento degli stessi. Terry Fox, quindi, per chiudere questi 451 suoni in movimento, ricordo appunto ancora Gordon Molan nel suo workshop che si chiama Dimensioni del Suono a Spazio Aereo a Marghera, Venezia, e dal, ripeto, 24 al 26, 25 ci sarà anche gli Elasi dentro questa progettualità. Comunque andate a trovare tutto poi su spazioaereo.com. Vi saluto appunto con Terry Fox. Max Macchia vi rimanda la prossima settimana per 451 frammenti sonori, probabilmente in compagnia di Eliseo Scarpa, vedremo, insomma, qua è tutto aperto e ci piace così, mettiamola in questa faccenda. Ci sarà tra l'altro anche lunedì 451 intersezioni, continuerà le sperimentazioni, quindi insomma abbiamo un bel po' di carne al fuoco, speriamo di non bruciarla, magari potrebbe anche diventare tanto, ma non credo, via, perché. Un saluto da Max Macchia, fatti bravi e ci sentiamo a presto, mi raccomando.